Francesco. Ok. Sì. We'll be right back. Yeah. prova, prova, Fra, prova Ayamel, prova. Che ci sincronizziamo tutti sul metronomo, però come facciamo a gemmare insieme? Come...